Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali. È uno dei simboli dell'italianità nel mondo per il suo prodotto principe e perché teatro di una socialità, un modello di aggregazione sociale tipico del nostro paese. Oggi il bar, di questo parliamo, sta attraversando una profonda trasformazione e noi ve la raccontiamo. Siete pronti al mese più pazzo per le offerte degli acquisti online in attesa del Black Friday, venerdì 25 novembre, prima del Cyber Monday, lunedì 28 novembre e in corrispondenza del Singles Day, venerdì 11 novembre, l'Italia lancia il suo Crazy Web Shopping, la notte bianca dell'e-commerce. Sapete che cos'è il clickbait? Si definisce così quella strategia di marketing che, esasperando contenuti e titoli, spinge l'utente a cliccare su un link. Il suo antidoto nella comunicazione vincente è la curiosità aumentata. Ne parliamo nel Focus sui trend. Una vita con... Desiderate qualche cosa? Un caffè. Con un po' di humor. Qualcosa di diverso, di speciale. Un caffè con humor. Che? Con humor. Non c'è più, è finito. Ci metto voce e fermette, uguale. Caffè corretto? Quale caffè corretto? Quello che ho ordinato lei. Ma io ho chiesto un caffè normale. E con questo che ci faccio io? Se lo beva lei. Caffè normale? Sì, con utopia. Soltanto con utopia si possono creare certe illusioni. Un caffè con utopia. Con chi? Mica ti sarei sbagliato, no? Lo vogliamo fare normale? Sai come sento ormai il nostro rapporto? Caffè? Non più normale, ma freddo, freddissimo. Un caffè freddo, freddissimo. Ti ricordi bene come mi chiamo? Gennaro Gargiulo, e se sbaglio la comanda l'hai... Cosa? Bravo. 7000 caffè, li ho già presi perché sono stanco di stare al volante, vorrei arrivare entro sera da te, che aspetti me. Nel castello lassù, con la treccia già sciolta, affacciata al balcone, vestita di blu. 7000 caffè. Sono 149.000 i bar in Italia, servono 6 miliardi di tazzine di caffè espresso ogni anno, il 49% consumato a colazione. Simbolo dell'italianità nel mondo, tanto che si racconta che il fondatore di Starbucks, dopo un viaggio in Italia, si sia ispirato proprio ai baristi milanesi per la sua idea di impresa. Sta cambiando pelle, ampliando la propria offerta anche ai servizi. Basti pensare che il bar oggi, forte della sua diffusione, dei suoi orari di apertura, è uno snodo anche per il recapito dei pacchi del commercio elettronico. Nei centri storici però mostra segnali di debolezza. Tutti i cambiamenti di cui abbiamo parlato con Lino Stoppani, presidente di FIPE, la Federazione Italiana Pubblici Esercizi. Parliamo di 80 miliardi di fatturato, parliamo di 40 miliardi di valore aggiunto, parliamo di 300.000 imprese, parliamo di oltre 1 milione di occupati, per cui è un settore assolutamente essenziale all'interno del quale il bar è l'anima, la componente essenziale, che ha anche un grandissimo valore sociale in termini di aggregazione, di convivialità, di sviluppo di quelle che sono tendenze anche in campo culturale, scientifico e anche politico che il bar molto spesso sviluppa. È chiaro che in questi anni ha avuto una trasformazione collegata alle trasformazioni urbanistiche delle città e anche i comportamenti del nostro consumatore, per cui oggi è un bar che è diventato polifunzionale, si è adattato nella sua offerta a quelle che sono le aspettative di consumo da parte del consumatore, per cui la colazione del mattino, il pranzo veloce a mezzogiorno, le happy hour piuttosto che l'aperitivo serale, e con una trasformazione anche di radicale cambiamento quella che è la sua offerta, non più cioè solo bevande, caffè eccetera, ma anche un'integrazione di quella che è una gastronomia fredda fatta da panini o da prodotti comunque facili da allestire senza aver bisogno di cuochi o di grandi macchinari, insomma. Per cui ha un'evoluzione, tra l'altro il modello del pubblico esercizio italiano e del bar in particolare è un modello unico al mondo, diffuso, di qualità, e che giustifica anche il fatto per la quale, per esempio, le catene internazionali facciano fatica a sviluppare o a trovare business all'interno del nostro mercato. Certamente ce l'hanno, perché la ristorazione commerciale oggi ha un ruolo diverso rispetto al passato. Però se ci confrontiamo con quella che è l'esperienza internazionale, soprattutto americana, vediamo che il modello del pubblico esercizio italiano, piccolo, con una gestione soprattutto di carattere familiare, mantiene il suo ruolo, la sua funzione e anzi riesce anche a svilupparsi integrando la sua offerta, offrendo poi opportunità di occupazione. Al di là del turnover, i vostri dati raccontano anche di una contrazione dei bar a vantaggio dei takeaway. Ecco, che cosa sta succedendo in questo senso? Beh, questi sono, tra virgolette, le degenerazioni o comunque la dimostrazione della incapacità del mercato di sapersi autoregolamentare, e questo a causa del fenomeno delle liberalizzazioni che ha interessato anche il nostro settore e che ha portato ovviamente ad un eccesso di offerta, anche perché contemporaneamente si è sviluppata tutta quella che è l'attività della cosiddetta somministrazione non assistita, fatta da mini market, attività artigianali che ovviamente si sono inserite nel nostro mercato, tra l'altro non rispettando il principio stesso mercato, stesse regole, perché le regole che sono poste all'attività di pubblico esercizio sono regole assolutamente importanti dal punto di vista del rispetto di disposizioni amministrative, disposizioni di pubblica sicurezza, disposizioni igienico-sanitarie, dati di regolamenti comunali, che per esempio non hanno queste attività parallele, che tra l'altro poi favoriscono anche certi settori o certe patologie. Basti pensare all'alcolismo, no? Oggi questo paese registra un incremento assolutamente preoccupante, questi sono dati del Ministero della Sanità, non del Presidente della FIPE, che sostiene che c'è un innalzamento di casi di coma etilico da parte di minorenni. Questo è certamente giustificato dal fatto che esistono purtroppo oggi molte occasioni di consumo, e molte occasioni di consumo sono date da questi minimarket che vendono alcol in qualsiasi orario senza nessun vincolo, a differenza invece di un pubblico esercizio dove la sensibilità umana del barista o dell'operatore dell'esercizio sa anche capire quali sono i momenti e le condizioni per le quali somministrare dell'alcol. Oggi il proliferare di queste attività senza identità, senza qualità, mettono in difficoltà e a rischio anche quello che è un progetto turistico dei centri storici, dove evidentemente alla bellezza monumentale si deve abbinare anche una bellezza in quella che è l'offerta dei servizi che si offrono, e l'attività di pubblico esercizio è un componente essenziale dei servizi al turista, e se abbassiamo il livello della qualità del pubblico esercizio andiamo anche a pregiudicare un asse della nostra offerta turistica. Good evening to the great people of China. I am the 45th President of the United States, Frank J. Underwood. And tonight, I wanted to take a moment to say hello to all of you out there to wish you a happy Singles Day. If this Singles Day is the excuse you've been waiting for... Ve lo ricordate, un anno fa Kevin Spacey alias Frank Underwood, testimonial del Singles Day per Alibaba, la festa che il colosso dell'e-commerce cinese ha trasformato nel più grande evento di shopping online al mondo. Torna, come ogni anno, l'11 novembre. Nello stesso giorno in Italia Netcom, il consorzio del commercio elettronico italiano, promuove Crazy Web Shopping, la notte bianca dello shopping online, dalle 12 dell'11 novembre alle 18 del giorno successivo. 30 ore di sconti e offerte sul portale crazywebshopping.it. Roberto Liscia, presidente di Netcom. L'iniziativa segue un trend ormai mondiale in cui in ogni paese per una notte, un giorno, si fanno delle promozioni dei merchant che vogliono insieme in qualche misura facilitare lo sviluppo del mercato. Fra l'altro questa iniziativa avviene negli stessi giorni in cui la stessa iniziativa viene fatta in Cina, dove sapete che in un giorno di promozione la Cina fa quanto l'e-commerce italiano durante tutto l'anno. Noi abbiamo voluto favorire i merchant italiani e soprattutto favorire il consumatore e soprattutto favorire in qualche misura una selezione di siti che garantiscono il consumatore del prodotto, della garanzia di prodotti e di servizi che sono in qualche misura tali da rompere gli indugi di quei consumatori che ancora non si sono affacciati in questo settore dell'e-commerce. Sappiamo che i consumatori italiani sono ormai 20 milioni, però voglio dire ci sono ancora una ventina di milioni di consumatori che non comprano online. Quale tipologia di sconti su quali prodotti? Ma i prodotti sono veramente diversi, perché si va dai prodotti di arredamento, prodotti alimentari, servizi, quindi in realtà è rappresentato tutto lo scenario dell'offerta dell'e-commerce italiano, che come sappiamo è molto ampia, perché in Italia si vendono prodotti tecnologici, prodotti di abbigliamento, si vende prodotti di viaggio e prodotti assicurativi, e quindi in questo momento l'Italia si sta muovendo un po' in linea con quello che sta avvenendo anche negli altri paesi europei. La cosa che ci dà grande soddisfazione è che ci sono sia i piccoli che i grandi che hanno deciso di aderire a questa, diciamo, promozione che non vuole essere scontistica, ma vuole essere promozione del settore. Incuriosire e spiazzare, queste le parole d'ordine della comunicazione vincente. Ne parliamo tra pochissimo, subito dopo la pausa. Restate con noi. Stazioni di servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene. Vi presento Essere e Avere. La pubblicità si basa su un'unica cosa: la felicità. E sapete che cos'è la felicità? Beh, la felicità è una macchina nuova. È liberarsi dalla paura. È un cartellone pubblicitario che ti salta all'occhio e che ti grida a gran voce che qualunque cosa tu faccia è ben fatta. Focus sui trend. Tecnologia, ma non solo, al servizio della comunicazione vincente, che punta sulla curiosità aumentata. Ne parliamo con Paolo Ferrarini di Future Concept Lab. Buonasera Paolo, ben trovato. Buonasera, buonasera. Allora, mi è piaciuta moltissimo questa definizione di curiosità aumentata per descrivere questa tendenza. Di cosa si tratta? Allora, si tratta di un salto in avanti rispetto a uno dei meccanismi classici della comunicazione, che è quello di far scattare l'effetto surrealismo, quindi mettere assieme due cose che non c'entrano niente l'una con l'altra e creare appunto un fatto accidentale. Quello che abbiamo notato è che negli ultimi tempi questi fenomeni curiosi non sono più così casuali, nel senso che molto spesso si vanno a recuperare dei temi interessanti che scatenano la curiosità, magari anomali rispetto ai temi classici di comunicazione, e poi vengono sviluppati da un punto di vista narrativo in una maniera totalmente originale. Infatti voi parlate proprio di curiosità accidentali. Iniziamo allora a raccontare i casi che hai raccolto per noi. Sì, un caso che ci ha molto colpito è quello della nuova linea di comunicazione di Adidas, che è tutta incentrata sul concetto di futuro, però volendo parlare questa campagna a una generazione invece dal futuro molto incerto, volendo parlare ai millennials, ai giovani, ai ragazzi di oggi, loro hanno scelto come slogan "Your future is not mine", il tuo futuro non è il mio. L'idea è quella di seguire delle strade che non sono quelle precostituite, quelle già battute, quelle indicate dalle generazioni più grandi. Hanno realizzato, per supportare questa campagna, dei video meravigliosi in cui apparentemente, diciamo, si svolge una specie di mood board, no? Si vedono delle situazioni etniche, poi subito dopo delle ambientazioni decisamente urbane, in cui c'è l'incontro tra il digitale e il virtuale e il reale. Quindi, insomma, apparentemente surreale, ma andando a vedere poi nel dettaglio ogni singolo frame, ogni singola ispirazione, anche la musica stessa, le parole del testo, è una campagna di una profondità che non si vedeva da tanto tempo, no? Quindi è anche un device estetico, un piccolo trigger estetico che però ci consente di approfondire anche la conoscenza di una generazione. Quindi si parte da quella curiosità, dal fenomeno bello, piacevole, un po' strano, ma che poi ci porta invece a un approfondimento che è piuttosto inedito per il mondo della comunicazione. Quindi la valorizzazione delle nicchie contro l'omologazione. Sì, che poi sono delle nicchie totalmente trasversali e imprevedibili, molto diverse da quelle che qualche anno fa magari potevano essere le subculture, no? Quindi sono, come dire, persone che, anche gruppi piuttosto numerosi, ma sparpagliati, che magari si trovano attraverso il digitale, non magari trovandosi nel quartiere, quindi anche l'estetica dello strano, no? Che porta poi all'originalità, che originalità e autenticità in comunicazione, soprattutto oggi, sono, come dire, uno degli elementi fondamentali. E partendo da queste narrazioni, che se vogliamo altamente estetiche, ma allo stesso tempo anche molto profonde, è una chiave di lettura piuttosto importante. Quindi molto contenuto, direi, Paolo, contro il clickbaiting, è una sottolineatura che mi hai anticipato e sulla quale sono assolutamente d'accordo. Il prossimo caso mi ha molto incuriosito, per l'appunto, e arriva dalla Svezia. Esattamente, la campagna The Swedish Number, quindi il numero unico per chiamare la Svezia. Non stiamo parlando di un prefisso internazionale, ma stiamo proprio parlando di un numero di telefono completo. Allora, la scusa per avviare questa campagna di comunicazione per la promozione del turismo svedese è stata la celebrazione dei 250 anni dall'abolizione della censura in Svezia. Quindi un anniversario piuttosto buffo, ma nello stesso tempo anche molto profondo, che ci dice molto della cultura svedese. In pratica, per promuovere appunto l'immagine della Svezia all'estero, in tutto il mondo è partita questa campagna per cui chiunque nel mondo poteva chiamare gratuitamente un numero svedese e si veniva messi in contatto con uno svedese a caso, che poteva essere il primo ministro, ma poteva essere una persona qualsiasi della città, della campagna, della provincia, di un grande centro, di un piccolo centro. E con queste persone si poteva dialogare, chiaramente in inglese, erano state selezionate un numero piuttosto grande di persone che in maniera totalmente casuale, proprio da chat roulette, venivano messe in contatto con persone di tutto il mondo che potevano chiedere informazioni, che so, sul clima, sul cibo, sulle abitudini, sulle tradizioni locali. Quindi sono arrivate veramente centinaia e centinaia di chiamate, anzi no, centinaia di migliaia, perché sono arrivate 187.000 chiamate da 186 paesi del mondo per un totale di 8.000 ore di chiamate della durata media di 2 minuti e 55 secondi, 3 minuti al telefono di media sono tanti. Il video con le chiamate vere al primo ministro, che era appunto uno degli ambasciatori, è molto divertente, lo abbiamo già postato, Paolo, sulla nostra pagina Facebook. L'ultimo caso ci porta invece in Giappone. La stranezza giapponese è uno dei temi sul quale in questo momento la comunicazione sta puntando. Certo, perché insomma, chiunque sia stato in Giappone o comunque conosca la cultura giapponese sa benissimo che non si può nemmeno parlare di surrealismo, siamo a un livello di stranezza e di atipicità e di distanza tale da quelli che sono i nostri canoni culturali che per forza diventa spiazzante e interessante la cultura giapponese. Cosa hanno fatto loro per promuovere un ospedale? In particolare parliamo del Kurashiki Center Hospital, che è piuttosto noto per la chirurgia. Per cui hanno fatto un processo di selezione degli aspiranti chirurghi con una sorta di, chiamiamolo, talent show. In pratica volevano vedere se, oltre alla teoria, che chiaramente insomma, basta studiare, la teoria si impara, volevano vedere se i futuri chirurghi avevano anche questa possibilità di usare le mani con grandissima precisione, perché sappiamo si tratta veramente di millimetri, soprattutto con certe operazioni piuttosto complicate. Allora hanno fatto questo processo di selezione e hanno chiesto agli aspiranti chirurghi di fare delle cose con le mani, ad esempio utilizzare delle pinze per creare dei sushi, dei roll di sushi che non fossero più grandi di un chicco di riso, oppure sempre con degli strumenti chirurgici dovevano fare degli origami partendo da un quadrato di carta di un centimetro per un centimetro. Solo chi superava quella prova poteva poi accedere al, diciamo, alla scuola per diventare chirurgo vero e proprio. Anche qua chiaramente c'è un video che racconta questa storia ed è veramente divertente e al limite della follia, come molte cose giapponesi. Un video da più di 1 milione di visualizzazioni su YouTube, 2 leoni al Festival della Comunicazione di Cannes 2016, insomma un grande successo anche questo. Che conferma ancora una volta, come dicevi giustamente prima, l'importanza del anche questa nuova wave, se vogliamo, di popolarità della cultura giapponese, soprattutto a livello di comunicazione, perché bisogna dire una cosa, ognuna delle loro stranezze, ognuna delle loro curiosità è sempre comunque basata su una tradizione, in alcuni casi millenaria, una tradizione che è talmente diversa dalla nostra che ci fa sembrare molte cose semplicemente strane, ma in realtà anche qui c'è una possibilità di approfondimento e di scoperta che è decisamente innovativa. Quindi ancora grande contenuto, Paolo, anche in questo esatto, caso. Esatto, che è un po' nascosto, se vogliamo, il contenuto. È da cercare, e sta lì anche l'ingaggio dell'utente, ovviamente. Esatto, c'è l'apparenza dello strano che ma dici, ma cos'è questa cosa qua? E poi invece, se vuoi, chiaramente, puoi andare ad approfondire e dalla sorpresa si passa alla scoperta vera e propria. Paolo Ferrarini, grazie, alla prossima. Grazie a voi, a presto. Ciao. Il consumautore. I consumautori siamo tutti noi, sempre più informati, responsabili, protagonisti delle nostre scelte di consumo, sono le riflessioni che di puntata in puntata ci accompagnano nel nostro dialogo con il sociologo Francesco Moracce. Ciao Francesco. Ciao Maria Luisa, buonasera a tutti. Questa sera me lo hai anticipato, partiamo da un libro. Sì, è un libro importante, un libro collettivo curato da Andrea Farinet ed è un libro che ha come titolo Socialing, ma come sottotitolo, che forse è la cosa più importante, un nuovo equilibrio tra consumatori, imprese e mercati, che credo sia il punto di equilibrio strategico e decisivo per il rilancio anche della nostra economia. È un libro che parla anche molto di pubblicità. Sì, è un libro che mette al centro questa dimensione che, devo dire, è emersa anche con grande forza nei 4 giorni del Festival della Crescita, e cioè ricollegarsi a una verità profonda anche nel comunicare. E abbiamo in qualche modo creato questo gioco di parole, che non dice più la pubblicità è l'anima del commercio, ma dice l'anima è la pubblicità del commercio. Quindi l'anima intesa nel senso dell'autenticità, di ciò che si fa, di ciò che si pensa, all'interno di una filiera che è anche concettuale e non solo produttiva. In che misura la comunicazione commerciale e quella sociale si stanno avvicinando da due fronti che un tempo erano opposti? Io direi che il concetto chiave è la trasparenza, cioè ciascuno di noi, sia come persona, cittadino, che come consumautore, pretende di conoscere tutti i passaggi e quindi la filiera produttiva, ma pretende anche l'onestà nelle relazioni tra chi vende e chi compra. Ecco, questo è un percorso inevitabile e chi per primo lo comprende può giocare un nuovo ruolo, anche avere un vantaggio competitivo nuovo. Grazie a Francesco Morace, grazie a Filippo Aureggi in regia. Essere Avere finisce qui. A domenica prossima, un saluto da Maria Luisa Pezzali.